Quel motociclista, poveraccio. vicino a casa. Sarà... Gli serve il palo, gli serve il bilancio di gaffe, fare il foro, non è così, così faccio come pensa lui, no? E purtroppo, lui c'ha fretta, non so come dire che si vuole fare quei buchi giusti giusti, se va bene, va bene, se non va bene, pazienza, aspetta 15 giorni. Anche delle gaffe nuove bisogna che compra. Alle 8 è libero, capace che poi di andate a pescare stanotte, cosa ne so. Gente, è normale. Cavalcava. febbraio, 3 mesi me ne faccio. Papà, da gennaio me ne faccio 3 mesi, così sono a posto. E via, la stessa cosa che fa Giuseppe, precisa vendica. Quindi non conviene. Appena il primo di gennaio devo andare, faccio la domanda e mi fa entrare subito. E ne becco 300 ogni mese. Io di Giuseppe. Io di Giuseppe. Salute. Come vai? Non lo so cosa mi facciano fare, la verità non lo so. Dice solo una volta all'anno ce lo fanno fare quel lavoro, quindi. Vabbè, poi mi sa bene, quei lavori dietro che faccio in nero mi hanno tolto almeno la base, ce l'ho, diciamola. Li tira così, stanotte ti compri una pinza. Ma allora già va bene, se c'è gente, guarda, se c'è qualche amico così. Quelli già non ce ne stanno, se già si può fare, se la penso la Siria. No, no, l'ho visto, hai visto una chef tranquillo, mi ha telefonato. Quando ci sono gente così già va bene. Il problema è sempre tra loro, trovi qualcuno magari che gli pensi una cosa, perché in difficoltà e poi. Non sai come sono i prestiti, tendi sempre a. Se sei fortunato ti paghi subito, se no sei buttizzo.